È già tardi e l'alba lo so, anch'io apro gli occhi e ci sei, plano, so che ti piace far piano. Oh, annuso un po' col tuo odore, sai di pane, che domenica e ho fame. Prendo il casco e parto sicuro. Io pilota e tu lassù, una stella, la giusta rotta. Yeah.